Gazzettino del 2015. Gazzettino del 2015. 30 aprile 2015. Caffè Expo. Alla Cattolica di Piacenza da 3 anni l'agricoltura fa parlare di sé. Alla vigilia dell'inaugurazione dell'Expo, i temi dell'alimentazione, dell'ambiente, di una nuova agricoltura e del ruolo delle tecnologie sono al centro del dibattito nazionale. Un contributo particolare in questi anni è stato dato da Caffè Expo, iniziativa dell'Università Cattolica, partita nel 2012. Sul modello dei caffè letterari, nel bar della sede di Piacenza, si sono organizzati incontri su crescita economica e sostenibilità ambientale, green economy, innovazioni agricole e modelli alimentari. L'idea, lanciata da Centro di Ricerca sull'Agricoltura Sostenibile Opera e sviluppata insieme agli studenti della Scuola di Dottorato AgriSystem e al Centro di Ateneo Expo Lab, ha puntato soprattutto sull'obiettivo di creare una lingua condivisa da esperti, decisori, studenti e persone comuni. Fin qui la notizia del 30 aprile 2015, ma come sapete il futuro ha radici nel presente in questo 2012. Caffè Expo è solo una tra le tante iniziative che mettono al centro i temi dell'Expo, ma ha un metodo libero e diretto che permette agli studenti di essere protagonisti e di spiazzare gli interlocutori, come rivela Ettore Capri, docente alla Cattolica e coordinatore di Opera e Caffè Expo. Bisogna partire dalla base e bisogna soprattutto riuscire a coinvolgere, ad avere una partecipazione di tutti i settori produttivi e soprattutto all'interno di quella che è la filiera agroalimentare, che è l'oggetto essenziale dell'Expo 2015, cercare di rompere quelle che sono le barriere, non solo legate al mercato, ma soprattutto conoscitive. Oggi non riusciamo a dialogare sulla sostenibilità perché abbiamo un linguaggio diverso, perché siamo molto legati a quelle che sono state le modalità anche di apprendimento delle diverse discipline, ed è necessaria un'integrazione, che non è soltanto un'integrazione delle discipline scientifiche, ma anche un'integrazione di quella che è la conoscenza e il sentire dei diversi attori del sistema. Chi rimane poi più stupefatto è l'invitato, perché si aspetta sempre, come al solito, l'invito e poi il seminario, anche se viene avvertito, e invece all'interno del dialogo viene messo in difficoltà, tra virgolette, perché in realtà lo studente ha studiato e manifesta quelli che sono i dubbi, però non è lo studentello, è comunque un dottorando di ricerca e quindi li pone in un modo consistente. È bello sentirsi, per esempio, da parte di un decisore: ah, la domanda è molto interessante, io non so dare risposta, bisogna lavorarci. Cioè, normalmente no, si fa sempre della gran propaganda, oppure nuovi argomenti che vanno trattati, molto molto carino. È tutto per questa puntata del Gazzettino del 2015, condotta da Anna Rita D'Ambrosio e curata da Paolo Piacenza. Se volete scriverci, potete farlo all'indirizzo mail gazzettino2015@radio24.it.